cose su cui riflettere, insomma, fatti su cui riflettere. Poi 50 anni sono tanti, è difficile magari immaginare un trasferimento secco di comportamenti che all'epoca ebbero un grande significato, prenderli così come si svolsero e proiettarli nella realtà odierna, insomma, proprio perché mezzo secolo di distanza possono significare, anzi sicuramente significano tantissime cose dal punto di vista dei cambiamenti sociali, culturali, insomma. È facile immaginarlo, insomma, basta pensare già ai mezzi di comunicazione, a queste cose qui, per cui ci si rende conto che fatti di questo tipo vanno presi, non dico per quello che sono, perché soprattutto per quello che sono stati, ma per evidentemente per dei significati che hanno portato con sé, che hanno disvelato, che hanno messo in luce, e nel caso specifico sicuramente hanno messo in luce parecchi aspetti che riguardano la riflessione tra quello che era il movimento operaio dell'epoca e per esempio la sinistra nel suo complesso e anche le organizzazioni sindacali, insomma. C'è da mettere in conto che quel fatto, per esempio, significò proprio che la sinistra aveva perso il contatto con la realtà, cosa che per altri versi potremmo dire lo stesso di oggi, no? Anche se è difficile immaginare una sinistra odierna, insomma, all'epoca il termine sinistra aveva un significato, 50 anni fa, insomma, c'era un partito comunista, c'era un partito socialista, che erano tali, insomma, poi si può discutere, ma insomma lo erano nel vero senso della parola, oggi, e quindi erano, rappresentavano veramente la sinistra, insomma. Oggi è difficile immaginare il termine sinistra prendendo a riferimento quelli che sono i partiti, insomma, per esempio il Partito Democratico e la stessa CGIL di oggi rispetto alla CGIL del passato. Ma detto questo, sicuramente uno degli aspetti è proprio questo scompenso di lettura, di interpretazione, di comprensione di quello che stava accadendo non solo a Torino in questo caso è emblematica come situazione, ma quello che stava accadendo proprio nel tessuto sociale italiano, insomma, ecco. E perché è quello che successe a Torino fu qualcosa di che nessuno si aspettava, insomma, no? Completamente nessuno si aspettava, insomma, perché si veniva da anni in cui soprattutto negli anni 50, insomma, non gli scioperi non riuscivano, i lavoratori non lottavano, avevano perso fiducia, c'era in atto un grosso strapotere, insomma, una arroganza, uno strapotere decisamente forte da parte del padronato industriale, insomma, la Fiat al solito è emblematica, ma non era solo lei, evidentemente, insomma. Quindi c'era proprio un atteggiamento supino da parte dei lavoratori e d'altra parte, per altri versi, le organizzazioni sindacali dell'epoca non riuscivano a venire fuori da questa situazione. Quindi Piazza Statuto è significativo perché improvvisamente e contro ogni aspettativa ripartono veramente gli scioperi. Per la verità ripartono già dall'inizio dell'anno 1962, insomma, cominciano alla Michelin, cominciano alla Lancia, e sono scioperi che durano un mese, durano tre mesi anche, insomma, quindi sono scioperi forti, insomma, no? Decisi, con picchetti che oggi, insomma, sono cose che oggi non si sognano neppure, c'è evidentemente da questo punto di vista da fare anche un'operazione di didattica culturale, proprio, insomma, di recupero pieno di una memoria che però non è morta, è viva e va trasmessa, va riproposta alle giovani generazioni, insomma, per far vedere come in assenza anche di mezzi di comunicazione. All'epoca pochissimi operai avevano il telefono, non c'era modo di comunicare, non c'era modo se non la comunicazione orale che poteva venire dal cambio turno, un turno smontante e turno montante, che ti dicevi quelle 3-4 parole d'ordine: allora domani si fa così, domani ci si comporta così, si va di qua, si va di là. Insomma, queste erano le possibilità di comunicazione, oltre quelle che evidentemente metteva in campo il sindacato con i volantinaggi, con la presenza a distribuire volantini, ma tra lavoratori e lavoratori non c'era assolutamente possibilità di comunicazione, se non quella proprio sistema voce volto, diciamo così. Insomma, sì, ti dovevi incontrare di persona, dovevi parlare di persona, e quindi nonostante questo, anche da questo punto di vista è significativa la cosa, viene fuori una 3 giorni di mobilitazione che ha fatto veramente la storia del movimento operaio in Italia nel secondo dopoguerra, quindi senza andare troppo in là negli anni, ma sicuramente nel secondo dopoguerra, perché è da lì che poi iniziano tutte le mobilitazioni che porteranno all'autunno caldo, che porteranno poi al 68, che porteranno agli anni 70, insomma, diciamo sicuramente fino all'occupazione della Fiat del 1980 c'è una continuità significativa, e infatti cercheremo anche nella serata di venerdì di metterla in luce, insomma, proprio proiettando dei filmati che riguardano le lotte alla Fiat del 1980. Insomma, ecco, questo è un po' come dire, Piazza Statuto furono 3 giorni di sciopero, era stato proclamato uno sciopero di 72 ore, insomma, se pensiamo che oggi, ecco, già, pensiamo già a questo, no? Proclamare uno sciopero di 72 ore era del settore metalmeccanico, pensiamo oggi che si fa fatica a perché i sindacati non ne vogliono sapere, di proclamare uno sciopero generale di 8 ore, insomma, una giornata di sciopero, lì erano 3 giorni consecutivi, insomma. Quindi questo già dà un senso, no? una scossa forte all'immaginario, insomma, cioè, com'è possibile? Eppure non solo fu possibile, ma si arrivò proprio a una mobilitazione generale, all'inizio in Fiat, ma poi in tutte le fabbriche, perché la mattina del 7 luglio, giorno in cui cominciavano gli scioperi, già dal giorno prima la Fiat diffuse la notizia che aveva fatto un accordo separato con la UIL, che è la stessa UIL di oggi, e con il SIDA, che era un sindacato, diciamo, giallo, insomma, un sindacato padronale, in qualche modo gestito dalla lunga mano della Fiat, insomma, che però entrambi i sindacati, tra la UIL e il SIDA, all'epoca avevano raccolto la maggioranza delle commissioni interne. All'epoca, lo dico per cronaca, non c'erano i consigli dei delegati, non c'erano le RSU, verranno dopo, e verranno proprio con questo tipo di lotte, e Piazza Statuto sarà, porrà proprio esattamente questa, una delle cose che pone sul piano politico generale è l'abbandono delle commissioni interne e la formulazione, lì si parlava addirittura di comitati di reparto, insomma, poi diventarono consigli dei delegati. E comunque avendo la UIL e il SIDA la maggioranza nelle commissioni interne, cioè avevano più del 60%, quindi le commissioni interne erano controllate da questo, la Fiat pensò che questo gli assicurava una certa tranquillità, e quindi convocò questi due sindacati e fece un accordo separato che consisteva praticamente in una piccola elargizione monetaria, una sorta di premio fuori busta per tacitare la protesta, insomma, e pensando così appunto di fare in modo che questa protesta non andasse avanti, insomma, no? Ne fu data notizia, ma questo fece l'effetto opposto, cioè fece letteralmente incazzare tutti gli operai, insomma, no? Anche gli stessi iscritti UIL, perché questa cosa era proprio vissuta come un tradimento, insomma. E quindi dagli scioperi della mattina con picchetti molto duri e molto efficaci, spontaneamente questa massa di lavoratori cominciò a spostarsi verso il centro e si diresse proprio a Piazza Statuto, dove c'era la sede della UIL. E lì cominciarono le contestazioni forti al sindacato, lancio di sassi e poi tentativo di sfondare i cordoni di polizia per entrare proprio nella sede del sindacato, e da lì cominciarono, diciamo, le cariche della polizia, quindi gli scontri veri e propri, che durarono 3 giorni. Non solo durarono 3 giorni, insomma, ma si protraevano, insomma, fino a tarda notte, il 7 di luglio. Durarono fino alle 3, alle 4 del mattino, insomma. Poi ripresero la domenica, nonostante, insomma, il giorno successivo fosse domenica, ci furono di nuovo questi concentramenti di persone che sempre nella zona di Piazza Statuto, e poi ripresero fortissimamente il lunedì addirittura successivo, insomma. Quindi con le fabbriche totalmente chiuse e con questa affluenza continua di operai, ma a quel punto non erano più solo operai, erano anche operai delle grandi fabbriche, erano anche altri lavoratori così più o meno dispersi sul territorio, erano proletari che venivano dai vari quartieri della città, insomma mezza città veramente si concentrò in quelle 3 giornate e diciamo portò il suo livello di protesta in quella situazione, ecco perché diventò anche emblematica questo fatto di Piazza Statuto, insomma, perché tra l'altro coinvolse, partì dalla classe operaia, diciamo così, e coinvolse direttamente poi altri strati sociali, insomma, che comunque si sentivano, diciamo, pur non vivendo una condizione operaia come poteva essere quella delle grandi fabbriche, però insomma si sentivano stretti in questa situazione politica economica. Perché? Perché si veniva da un periodo, ricordo che quegli anni furono in particolare il 60-61, insomma furono chiamati gli anni del miracolo economico. Il PIL raggiunse il livello più alto nella storia di questo paese, insomma nel 1961 la crescita del PIL fu di oltre il 7%, insomma a livelli cinesi. Sì, quasi non si arrivava alle 2 cifre, ma insomma un 7% di PIL non si è mai raggiunto, insomma. Eppure avvenne, e tutto questo avveniva perché c'era stata questa grossa industrializzazione. E soprattutto al nord, ovviamente, e con la creazione di grandi fabbriche, disponibilità di manodopera a bassissimo costo, perché il sud le campagne si andavano spopolando, insomma, anche perché nonostante le promesse e le aspettative che in qualche modo c'erano state dopo la liberazione dal fascismo, la terra era rimasta a mano agli agrari, insomma, eppure al sud ci furono grossissime lotte bracciantili, insomma, ciò nonostante c'era questo flusso migratorio che ancora nel dopoguerra, negli anni 50, si orientava all'estero. Quando cominciò l'industrializzazione del nord, insomma, quindi prima metà degli anni 50, prima, seconda metà degli anni 50, una parte di questo flusso migratorio ovviamente si orientò verso il nord Italia piuttosto che all'estero, bene o male si restava sempre in Italia, insomma, si erano appunto gli emigranti con la valigia di cartone che andavano a Torino, andavano a Milano, non erano ben visti, c'era un razzismo latente, e dormivano in 5-6 per camera, un po' come gli immigrati che possiamo immaginare oggi, no? Di altri paesi, che vengono da altri paesi esteri, insomma, no? I cosiddetti migranti. E quindi questa situazione era vissuta da gente che veniva dalla campagna, dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Sicilia, insomma, dalla Calabria, e quindi con una diciamo compressione dei diritti, della dignità, con un amaro in bocca molto forte, insomma, che per alcuni anni ha comunque funzionato il ricatto e la disciplina che c'era in queste grandi fabbriche, soprattutto alla Fiat, ma poi appunto un po' i primi sentori, se vogliamo, se ne hanno già nel 1960 con la rivolta contro il governo Tambroni, che insomma non fu, è passata alla storia come una rivolta antifascista, e sicuramente questo era il tratto principale, però insomma non mancarono all'epoca osservatori attenti che capirono che c'era qualcosa di più, c'era anche dell'altro, oltre che la volontà di cacciare il governo Tambroni, i fascisti dal governo, eccetera, eccetera. C'era anche dell'altro, insomma, no? Però al solito la sinistra tutto questo non lo capì, e non capì neanche nel 1962 a Piazza Statuto, e fa impressione oggi che ieri, oggi per dire, in questo periodo, la sinistra ancora non capisce, no? E ripropone questi schemi di lettura pazzeschi. Insomma, ieri c'è stato l'Unità che ha pubblicato un articolo su Piazza Statuto, un articolo di Rinaldo Gianola, 50 anni da Piazza Statuto, un'altra Italia, insomma, no? In cui dice brevemente le cose che accennavo prima come cronaca, e poi riporta le testimonianze di Diego Novelli, Goffredo Fofi e Giuseppe Berta. E Novelli, Diego Novelli, è stato lungo grande esponente, insomma, noto esponente del Partito Comunista, sindaco di Torino, eccetera. Lui, nel ricordare, all'epoca dice era responsabile della redazione piemontese dell'Unità, e nel ricostruire quei fatti dà ancora questo senso proprio di incomprensione e di strumentalizzazione, perché dice: nel pomeriggio del 7 luglio, quando insomma proprio già c'erano stati gli scontri a Piazza Statuto, già c'era stato il tentativo d'assalto alla sede della UIL, dice: nel pomeriggio la situazione cambiò, perché insieme agli operai arrivarono anche altri soggetti, c'era tanta gente incazzata che non c'entrava niente con la Fiat, giovani immigrati, anche personaggi malavitosi. E poi ancora più avanti dice: mi feci l'idea che la protesta era stata infiltrata e strumentalizzata, c'era una grossa provocazione in atto e arrivò il famigerato battaglione Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa era ed è tuttora la logica, lo schema di lettura di tanti movimenti. Insomma, quante volte si è ripetuto questo cliché da parte della sinistra ufficiale nel giudicare, interpretare questi movimenti, questi fatti salienti che sono periodicamente avvenuti, insomma, nella realtà italiana. C'è sempre questa chiave di lettura dietrologica, che c'è sempre la strumentalizzazione, il complotto, no? Le cose così, e mai a riflettere sui propri errori, sulle proprie incomprensioni, no? C'è sempre qualcuno da individuare come agente provocatore o che non c'entra niente, insomma, cose di questo tipo qui, ecco. Quindi, insomma, le chiavi di lettura sono tante di questo avvenimento di Piazza Statuto, e soprattutto, insomma, quello che cercheremo di fare è sicuramente dare una breve lettura di quei fatti, lettura nel senso che sarà proprio fatta da due interpreti come Tamara Bartolini e Michele Baronio, che leggeranno dei brani tratti proprio dal libro di Dario Lanzardo, che si chiama La rivolta di Piazza Statuto, e quindi questo proprio a scopo didattico. E altrettanto a scopo didattico ci sarà questo filmato inedito girato da un compagno di Radio Onda Rossa, che faceva parte della redazione di Radio Onda Rossa dall'inizio e per alcuni anni, che si chiamava, perché è morto qualche anno fa, Alfio Di Bella, e che ha girato tantissimi documentari in giro per l'Italia, sempre come Controimmagine era il nome della sua trasmissione, e come redazione di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa Controimmagine. Sono filmati che stiamo recuperando adesso, insomma, quindi sono inediti anche per molti compagni che all'epoca hanno o frequentato la radio o il movimento, insomma, perché non si è riusciti poi nel tempo, per una serie di motivi, a svilupparli, a renderli fruibili. Quindi ci sarà anche questo, insomma, no? Come, diciamo, recupero autentico di una memoria che non è fissa, come dicevo, solo all'episodio di Piazza Statuto del 1962, ma nel caso del documentario, del filmato, descrive il livello di discussione che c'era ancora nel 1980 alla Fiat tra gli operai. È un filmato da questo punto di vista molto bello, è molto proprio istruttivo, perché si capisce e si nota quanta capacità di discussione e di approfondimento hanno questi lavoratori. Insomma, ricordo che la lotta della Fiat del 1980 durò 37 giorni, insomma, non pochi, in cui poi alla fine, insomma, si finì come finì, e anche qui con una debacle indotta dall'atteggiamento prima del PC e poi del sindacato, insomma, perché il PC andò lì in persona addirittura di Enrico Berlinguer, segretario, che parlò ai cancelli della Fiat sostenendo a spada tratta la lotta dei lavoratori, l'occupazione della Fiat che c'era in quel periodo. E poi dopo un po' di giorni, quando prese la CGIL, la UIL e la CISL, in particolare l'AMA Carniti e Benvenuto, presero a pretesto questa manifestazione dei quadri Fiat, che passata la storia come la manifestazione dei 40.000, 40.000 non erano, ma non è tanto questo il problema se erano 40.000 o 20.000, per dire basta, chiudere la vertenza, e la chiusero a ribasso, insomma, no? Tradendo completamente le aspettative degli operai, che si erano sentiti sostenuti in questa lotta dallo stesso segretario del Partito Comunista, insomma. Quindi anche lì c'è una grossissima contraddizione, una catarsi terribile, insomma, una cosa che ha pesato e che, insomma, da qualcuno è individuata come la fine in qualche modo di questo lungo ciclo di lotte del movimento operaio italiano, insomma. Ecco, questo è un altro aspetto, per dire che non si parlerà solo del 1962. Il 1962 Piazza Statuto è un incipit significativo, ma è un incipit di un racconto che, insomma, dura perlomeno 18 anni, diciamo, se vogliamo porgli una fine, almeno fino al 1980. In questi 18 anni succede di tutto in Italia, no? Ognuno è capace di fare un semplice ragionamento: succede l'autunno caldo, la contestazione giovanile, gli anni 70, insomma, le stragi, il periodo dello stragismo, i cambiamenti politici, insomma, uno scontro sociale e politico grossissimo, insomma, no? Quindi sta tutto qua dentro, insomma. Adesso dire che tutto comincia con Piazza Statuto è esagerato. Certamente però quello fu un segnale da cui, insomma, presero le mosse tantissime altre cose, insomma, che poi si sono evidentemente autoalimentate, autorigenerate in qualche modo, però, insomma, quel segnale fu estremamente forte e chiaro, insomma, no? Per chi fu in grado di capirlo. E tra questi non ci fu sicuramente il sindacato e il Partito Comunista, perché ancora nel 1968, cioè 6 anni dopo, non riuscivano a capire la contestazione giovanile degli studenti, no? Non capirono Valle Giulia, non capirono queste cose, insomma, no? Quindi inizia una lunga stagione di non comprensioni, ecco. Inizia una lunga stagione di non comprensione, esatto, diciamo così. Quindi le chiavi di lettura sono tante, insomma, di questa